Io ne approfitterei intanto per darvi il benvenuto e fare i saluti che di solito facciamo per accogliervi, e ringraziando l'autore che è qui con noi questa sera, l'architetto Suligli, che ringrazio. Buonasera, benvenute, buonasera. Siamo sempre contenti di organizzare delle presentazioni di libri, anche in questo contesto un po' più intimo e raccolto, perché dopo anni di, così, di blocco, di lockdown, di incontri digitali, tornare a vedersi e stare in mezzo agli scaffali può essere di nuovo un'esperienza, no? Ma questa sera il nostro ospite ci accompagnerà ben oltre questi scaffali, ci accompagnerà in un bellissimo viaggio e quindi ci lasceremo accompagnare dalla sua narrazione e verrà aiutato dal professor Nellino, che ringrazio perché non manca mai di darci una mano. Quindi lo ringrazio questa sera ufficialmente. Grazie. Con grande piacere. Grazie, grazie. E la biblioteca si sta adoperando per ripristinare delle abitudini, o a nuove abitudini anche, di incontri con un orario forse più facile per certi aspetti, visto che siamo in una fase invernale. Domani incontreremo un'autrice, Elena Marino, una scrittrice di Trento, ma che ha lavorato molto anche qui a Bolzano, scrive anche testi teatrali. Domani ci presenta il suo romanzo Passeggiata nella notte. Ma torniamo all'ospite di oggi e il libro che viene presentato in Mille Lama, La ricerca della città invisibile, Paititi Akakor. Vedo già delle bellissime immagini e non aggiungo altro se non che la biblioteca da qui a Natale organizzerà parecchie iniziative. Se avete piacere, l'unico modo per entrare in contatto sicuro con l'informazione è iscriversi, ed è un atto gratuito, perché non sempre ci sono dei passaggi, ecco, pubblicitari che lo ricordano al pubblico, per cui noi vi raggiungiamo solamente con delle mail. E per questo abbiamo bisogno della vostra autorizzazione e iscrizione. Grazie, buona serata e grazie ancora ai nostri ospiti. Grazie. Allora, siamo di nuovo qui. Ci siamo lasciati qualche mese fa con il maresciallo e la fioraia, e io penso che il prossimo dovrebbe chiamarsi l'architetto e il giurista. Ad ogni modo, scherzi a parte, sono veramente contento di tenere per la seconda volta a battesimo un libro dell'architetto e scrittore Alberto Suligli, e questo per molte ragioni. La prima è che, a mio avviso, si tratta, nel caso dell'amico Alberto, di letteratura con la L maiuscola. È facile scrivere un libro, è facile scrivere, è molto difficile scrivere bene. E soprattutto è molto difficile rendere un'esperienza di vissuto, portare la propria vicenda personale e i propri interessi ad un livello più alto, che non riassuma soltanto una singola esperienza di vita, di pensiero, di studio, di viaggi, ma cosa difficile è elevare questa esperienza a universale, cioè a rendere quel libro e quel racconto e quella narrazione non più una cronaca intimistica, non più un diario di bordo, ma una vera vicenda letteraria nella quale ognuno di noi può riscontrare le idealità e le pulsioni del suo tempo. Ci siamo lasciati con Il maresciallo e la fioraia, un giallo ambientato a Bolzano, tra le strade, i locali, i palazzi dell'architetto. Oggi celebriamo un libro che si estende molto oltre i confini della nostra città e che giunge a lambire il Perù e le terre dominate in passato dagli Inca. E così veniamo a una vicenda storica che occorre brevemente ripercorrere e ricostruire, seppur per sommi capi. nel 1533 i conquistadores dispiegano la loro ferocia nelle Americhe. E uno in particolare al quale va la simpatia, sto scherzando, del nostro autore, Pizarro, riesce a catturare l'imperatore Inca Atahualpa. E una volta catturato l'imperatore di questa civiltà di lunghissima data, chiede un riscatto in oro, che viene trasportato, secondo la tradizione, da 1000 lama. E da qui il titolo del romanzo di Alberto Sullici. Ma questi 1000 lama non giungono mai a destinazione. Per quale ragione? Perché Pizarro nel frattempo fa trucidare l'imperatore Inca, viene meno alla parola data e lo fa trucidare in maniera particolarmente crudele. Quel che i conquistadores non potevano sapere è che la civiltà Inca disponeva di un sistema di comunicazione molto all'avanguardia, che noi conoscevamo nel Medioevo, noi europei, un sistema di comunicazione a staffetta che permette la circolazione della notizia della morte dell'imperatore. Per cui i lama, i 1000 lama, deviano il loro percorso e lasciano l'oro, nascondono l'oro in una città invisibile che noi non sappiamo tuttora dove si trova. Bene, è un momento cruciale della storia europea e internazionale, perché in quel momento si apre una spaventosa crisi della civiltà europea. Quando si parla di rivoluzioni, si pensa alla rivoluzione francese, si pensa alla rivoluzione luterana, Lutero, qualcuno pensa alla rivoluzione pontificia come primo modello di rivoluzione mondiale, quando il Papa pretende di avere nelle sue mani tanto la spada quanto il pastorale. Ma c'è una rivoluzione che è molto più drastica nella storia della civiltà occidentale, ed è proprio la scoperta delle Americhe. E non parlo del fatto geografico, ma del fatto sociologico, storico, e mi spiego meglio. La tradizione occidentale, fondata su un principio teologico, e cioè sull'idea che Dio avesse dato a tutti gli uomini la ragione naturale, e con la ragione naturale, ratio per noi giuristi, anche una legge naturale, una legge naturale inviolabile, cordibus inscripta, cioè scritta, incisa nel cuore di ogni uomo a prescindere dall'appartenenza nazionale, è un termine inappropriato, ma comunque di origine geografica. Questa idea entra in crisi quando i viaggiatori verso le Americhe scoprono i cannibali. Un grande autore, Michel de Montaigne, un giurista, un politologo, un grande della letteratura francese, dedica un libro dei suoi essay a De Cannibalis, cioè sui cannibali. Perché l'argomento che incomincia a circolare è questo: se noi ammettiamo che vi siano società in cui gli uomini si mangiano reciprocamente, dobbiamo concludere che questa legge naturale su cui si basava tutto il nostro sistema politico non è poi una legge così buona, non è una legge così eterna, non è una legge che noi gradiremmo venisse applicata ad ogni latitudine. E quindi crolla per la prima volta il modello della legge naturale. È venuto meno quel modello, subentrano due tendenze opposte. Da una parte, il potere politico si fa religione, e lo vedremo nelle pagine romanzate di Alberto Sulligi, e dall'altra parte la religione incomincia a farsi potere politico. Si corrobora questo movimento di forzatura e di esasperazione di motivi che comunque erano presenti nella tradizione precedente. Ora, Pizarro si avvaleva della consulenza di un teologo, ce lo dirà poi Sulligi, che è molto più esperto di me in materia, De Valverde, Vicente De Valverde, il quale sosteneva, diciamo con grande autorevolezza, che gli indigeni non avessero l'anima, basandosi proprio sulle esasperazioni dei racconti di viaggio, che spesso erano anche inventati. Spesso questi autori inventavano di avere viaggiato, quando in realtà se ne erano stati magari seduti in Francia o in Italia e così via. Bene, in questo contesto storico, che Sulligi è un tema ricorrente nei suoi libri, potrebbe definire di bullismo di civiltà, no? Esportare i valori, esportare quel che si crede giusto, anche al prezzo di trucidare un'intera civiltà, come poi di fatto accadde. E in questo contesto storico, quindi di una civiltà annientata, travolta, non da un potere maligno, ma dal potere di noi europei, la storia della civiltà è sempre storia di civiltà e al contempo di barbarie. Questo lo dice Walter Benjamin, no? Non esiste un documento di civiltà che non sia allo stesso tempo documento di barbarie, e in questa barbarie, da questa barbarie prende spunto la fantasia e la penna creatrice di Sulligi per dipanare le fila di un nuovo romanzo. E questo romanzo inizia proprio laddove era finito l'ultimo, cioè due detective bolzanini, Christine Spiller e Paolo Laurenzi, che per lui sono ormai amici e persone con cui cena, come diceva Tabucchi di Pessoa, e Pessoa si immaginava, Tabucchi scrive un bel racconto nel quale immagina Pessoa a cena con i suoi personaggi immaginari, cioè in realtà i suoi pseudonimi in questo caso. Ebbene, questi due detective che non ci sono nel romanzo, non sono presenti nel romanzo Il maresciallo e la fioraia, si trovano, non ci sono in quel romanzo perché sono in Perù a cercare di risolvere il mistero dell'oro degli Inca, niente di meno. Ecco, diciamo che siamo passati da un giallo ambientato nei quartieri bolzanini tra Hopfen e il centro storico al Perù, e a un mistero molto più grande che diventa giallo e anche giallo storico, perché Sulligi, a differenza di quei viaggiatori di cui vi dicevo che non hanno mai viaggiato ma che hanno incominciato a scrivere come se avessero viaggiato, Sulligi in Perù c'è stato per via del figlio Stefano, che lì lavora, e naturalmente ha parlato con gli indigeni, ha parlato con i locali e ha raccolto informazioni sulle possibili tracce di questa scia di lama che portava seco l'oro degli Inca. Ebbene, su questo affresco introduttivo io cedo la parola al personaggio principale di questa serata e gli chiedo, è proprio questo, come nasce, caro Alberto, l'idea di un romanzo giallo ambientato in Perù e con il proposito di risolvere, o se non altro con la speranza che viene data al lettore, di risolvere uno dei più grandi misteri che tanto hanno affascinato i pensatori, i viaggiatori, gli scrittori. Grazie Antonio. Bravo. Anch'io ti ringrazio. E come hai detto tu, l'input per questo romanzo nasce dalle visitazioni di mio figlio nel Perù e quindi i suoi racconti. Quando lui finisce l'attività a Stromboli del suo vivaio, prima del Covid andava ogni anno in Perù e stava lì 3-4 mesi e correva un lavoro con un amico che compare qui, che era quello che si chiama Oliver, un italiano che vive ai margini della selva a Salvación, questa cittadina che è un po' il capoluogo del Madre de Dios, e mi ha raccontato di questo parco del Manu, che è un parco, lui è un, naturalmente si interessa di piante, e quindi mi ha raccontato della biodiversità. Questo è uno dei posti con la maggiore biodiversità sul nostro pianeta. Come è nata questa idea di questo romanzo? Noi siamo stati nella selva amazzonica 3 mesi, dal dicembre del 2015 al febbraio del 2016, e abbiamo passato quindi anche il Capodanno lì, e questo è importante nell'economia del discorso, perché cosa è successo quel Capodanno? È successo che nella casa di questo amico aveva invitato molti Matsigenga, che sono una tribù locale, che non è come gli incontactados, per questo ormai vivono nella civiltà. E se pensate che lo sciamano con il quale dovevamo fare l'ayahuasca ha un figlio che si laurea in ingegneria elettronica a Cusco, quindi sono già, mentre invece quelli di cui andremo a parlare poi, i cosiddetti incontactados, sono quelli che non dovrebbero aver mai visto, fortunati loro, l'uomo bianco civilizzato. Infatti loro lo chiamano i barbari. In questa notte di Capodanno, complici 2 bottiglie di pisco, che è un distillato di vini del Perù, noi, Giovanni e io, non abbiamo bevuto, e le guide che erano presenti in questa festa, molto simpatica, stata, ci hanno raccontato le storie delle loro vicissitudini attraverso la selva, hanno accompagnato autorevoli archeologi, antropologi in questi viaggi nella selva, e mi hanno raccontato delle città che poi ho scoperto che si chiamava Acapulco. Mi avevano raccontato di queste città sotterranee, loro dicevano addirittura di 100-200 chilometri di sotterranei. Insomma, io ho fatto fatica a credere a queste cose, e dovete sapere che queste guide hanno lavorato tantissimo con National Geographic, con importanti spedizioni, e mi hanno raccontato di come si poteva arrivare. Loro sapevano più o meno dove potevano essere queste città, mi hanno raccontato dei pseudo segreti, mi hanno raccontato dove ci hanno raccontato come si poteva fare arrivare in questi luoghi. Finita la serata, c'è un invitato a casa di una di queste guide per vedere gli schizzi, i disegni per arrivare in queste città. Siamo andati a trovarli e praticamente hanno ritrattato quello che mi avevano detto in quella serata. Evidentemente non volevano far sapere fino in fondo come si faceva ad arrivare in questi siti. E lì ho capito che non era solo leggenda, se questi nascondevano queste indicazioni, vuol dire che qualcosa di vero ci doveva essere. E così è nata l'idea di scrivere questo romanzo. Io poi ho coinvolto sempre i 2 investigatori di Bolzano della LS, Lorenzo Spiller, Agenzia di Investigazioni di Bolzano, e in questo viaggio. Cos'è successo? Come inizia questo viaggio? Poi passerò la parola ad Antonio. Inizia così, che nella, nel visitare Cusco abbiamo visto il Coricancha, che è un vecchio tempio del sole dove i spagnoli, i pisani in particolare, avevano rapinato tutto l'oro che rivestiva le pareti, e questo, e oro, argento, e poi l'avevano fuso queste lastre e spedite in Spagna, come sappiamo, da cui anche poi i problemi economici che ha portato questo eccesso di oro in Europa, che ne ha lasciato, quanto diceva Antonio. E quindi avevo visto in questo palazzo Coricancha a Cusco una rappresentazione di Atahualpa con un bellissimo medaglione d'oro al collo. E lì mi era venuto in mente che questo medaglione potesse essere la chiave per arrivare alle coordinate di questa città. Poi andrò, non so se vado avanti in questo discorso o sveli troppo questo. A questo punto direi, perché ci sono naturalmente innumerevoli fonti al riguardo, no? La più importante e forse la più conosciuta è quella che anche tu citi, no? È di Chronique von Akako di Karl Brucker, il quale, se non ricordo male, scompare nella selva e nessuno sa che fine abbia fatto. E naturalmente tra storia e fantasia qui il confine è incerto. Quello che è certo è che si è trattato di una barbarie di civiltà, cioè in nome della civiltà si è commessa una barbarie, no? Fabula de nobis, verrebbe da dire. Ma tralasciando queste riflessioni che Sulligi ben ha svolto, io vorrei adesso che tu ci raccontassi qualcosa della plot, della trama di questo romanzo. Una trama che, badate bene, non è soltanto frutto di fantasia o frutto di immaginazione o divertissement, è qualcosa di più profondo, perché presuppone la conoscenza della cultura locale da parte dell'autore, il fatto che l'autore c'è stato. Ecco, non so se qualcuno di voi ha mai letto le lettere persiane di Montesquieu. Montesquieu descrive due persiani che viaggiano in Francia e descrivono la civiltà francese, ironizzando su quella civiltà, ma Montesquieu rimane nel suo castello alla Breta, non ha mai viaggiato, non ha mai mosso, diciamo così, non si è mai mosso dal suo, come dire, soggiorno alla Breta. Mentre invece Sulligi è andato sul posto, ha parlato con le persone, ha raccolto appunti, e infine da questi appunti nasce certamente una trama fantasiosa che io ti pregherei adesso di descrivere per sommi capi, senza naturalmente farti invogliare dallo svelare quella che è la conclusione di questo mistero che Sulligi tratteggia nel suo romanzo. Proporrei allora, forse, che Giovanna leggesse l'incipit del romanzo, in cui si capisce come inizia la storia, e poi volevo anche raccontarvi alcune particolarità di questa comunità mazzighenga di cui vi dirò dopo. Voi il microfono? No, devo girarvi. Lo tengo io. Forse mi sentono. Perdonate perché non è la mia professione. Parto del Mano, madre del Dios, Perù. Molto saggio, è il capo di una delle comunità dell'Incontertados, nella selva amazzonica del Manu, Perù. Sono i discendenti degli Yuga Mongulala, gli alleati degli antichi dei maestri, il popolo eletto con sei dita, vissuti millenni di anni fa. Molto saggio è la memoria orale della storia del suo popolo. È stato istruito dagli antichi popoli dell'Amazzonia, da suo padre e da, dal padre del, e suo padre dal suo, per generazioni. Ha il compito di proteggere le antiche città, ormai invisibili, ricercate da una moltitudine di archeologi, purtroppo anche da avventurieri di ogni genere. La priorità oggi è salvare il territorio dall'attacco dei barbari bianchi. Va bene, e quando siamo stati a Cusco, devo raccontare questo fatto perché poi mi aveva anche promosso alcune idee e la voglia di scrivere anche dei, delle nefandezze che stanno accadendo adesso nel, nell'Amazzonia. A Cusco ci è capitato di partecipare nella Plaza des Armas a una manifestazione delle popolazioni andine che manifestavano contro le concessioni minerarie concesse dal governo locale a, a questi estrattori che ricercavano l'oro. Dovete sapere che questa manifestazione era costituita da queste popolazioni andine nei costumi antichi inca, con una senilità. L'argomento era molto truce, ma perché loro erano sereni, hanno cantato, ballato, poi magari leggeremo anche un pezzo, un capitolo del libro su questo, e mi ha colpito proprio la grande, come si può dire, serenità nel esporre un problema gravissimo. Dovete pensare che per separare l'oro dalle, dalle rocce aurifere si usa il mercurio, che poi finisce nei fiumi, quindi erano morti i bambini, avvelenamenti, e questo fatto mi aveva colpito tantissimo e l'ho voluto inserire poi nel romanzo. E il racconto in sé invece nasce da questo personaggio che mi sono inventato, il monsignor Guido Canale, che è un signore professore di storia dell'arte di Roma, che aveva avuto la Christine Spiller come allieva, perché Christine prima di fare l'investigatrice era laureata in storia dell'arte e aveva seguito i corsi di storia americana precolombiana proprio con questo professore. Questo professore nel riordinare i musei, una parte dei musei vaticani specifica, aveva trovato questo disco, questo medaglione che si diceva fosse al collo di, portato da Atahualpa. Nel lavorare con questo medaglione aveva scoperto che quando era vicino ad un computer, insomma il computer entrava, insomma aveva delle atteggiamenti, diciamo così, anche se era una macchina, non consoni al suo essere. E quindi spedisce le foto alla sua ex allieva del disco e Christine e Paolo riescono a decifrare da dei simboli sul, con un sistema che è un po' complicato, che poi quando leggerete qualcuno mi dirà se sono riuscito a spiegarmi bene su come funzionava questo sistema. Questo, lavorando su questi simboli, spostandoli, girandoli sul disco, venivano fuori le coordinate di una di queste prime città, al confine tra il Brasile e il Perù, già ancora nel Parco del Mano. Questa è la cosa che così mi ha fatto iniziare questa storia, questa trama. Contemporaneamente poi un professore di Lima scopre invece, analizzando dei petroglifi su una roccia nel fiume Queros, dei simboli che gli inducono a pensare che le piramidi di Pantacoya che Cristina aveva decifrato sul disco siano il portale per arrivare alla città nascosta, alla città invisibile, come Margherita De Domas, che è qui presente, ha chiamato in un suo libro molto scientifico e non certo di avventura come il mio. E dovete sapere che mentre scrivevo questa cosa sulle piramidi di Pantacoia, che sono dei rilevamenti montuosi che un satellite americano aveva fotografato, e molti pensavano che fossero delle montagne naturali, mentre invece non lo erano state costruite. E da qui, e mentre io scrivevo che queste piramidi erano il portale per arrivare poi alla città, avevo letto, non mi ricordo dove, su una pubblicazione o l'avevo vista su YouTube, dove alcuni archeologi stavano dicendo che le piramidi di Pantacoia potevano essere quelle che avrebbero portato a trovare la famosa le città nascoste, che tanto ben descritte nel libro Cronaca di Hakkakor di Karl Brugger, che citava appunto il Sumerino. Come dicevo prima, contemporaneamente un professore di Lima scopre invece su questi petroglifi del fiume Keros alcuni simboli che lo inducono a pensare che le piramidi siano proprio. E quindi ci sono questi due gruppi che partono, uno dall'Italia e l'altro da Panama e Perù, per arrivare poi nella foresta amazzonica e si incontreranno. Volevo raccontarvi una storia di questi Matsiginga che ho conosciuto nella casa di, avete visto, di Oliver, l'amico amico di Stefano, con il quale collabora per portare i visitatori nella selva amazzonica. Avevo scoperto che questo gruppo di Matsiginga si chiamava di cognome Italiano. Ma intendete le piramidi? Eccole qui, vedete, questa è la foto fatta col satellite americano. Si chiamavano Italiano, ma Italiano, come mai questa cosa Italiano? Allora mi hanno raccontato, sempre in una di queste notti in cui molti vedevano, noi no, che questo cognome risaliva al tempo dei cauceri. Prima che la plastica invadesse il nostro pianeta si usava il caucciù, che come sapete si ricavava tagliando le piante e raccogliendo poi dei piccoli recipienti il caucciù, che poi è diventato un materiale in uso su tutto il pianeta. E uno di questi caucieri era un italiano, un italiano che aveva promesso a questa comunità, chiamiamola anche tribù, anche se il termine forse non è il più adatto, aveva promesso che se loro avessero raccolto il caucciù per lui, 40 un macete per ogni abitante della tribù, che avere un macete di ferro eccetera era un attrezzo molto importante per questi che non avevano sicuramente di questi materiali. Quando è tornato per raccogliere il caucciù, ha tentato di imbrogliare questi personaggi della tribù e non ha portato i famosi macete, promettendo che li avrebbe portati, e questi qui si sono un po' incazzati, no? E l'hanno fatto fuori, e da allora la tribù si è chiamata Italiano. Io nel romanzo l'ho chiamata Emiliano, inventando che questo caucciere fosse uno di Bologna, perché non potevo insomma coinvolgere senza un beneplacito questi signori Matsiginga. E dovete sapere che quando hanno fatto il censimento di queste popolazioni hanno mandato dei personaggi molto fantasiosi, perché, l'ho scritto anche poi nel romanzo, questi personaggi hanno dato dei nomi particolari. Per esempio l'autista che porta il gruppo sul pulmino da Cusco a Salvación, 230 km in parte in terra, in pista sterrata, si chiamava Roosevelt, scritto alla spagnola, R-U, perché questi fantasiosi, come si chiamano quelli che vanno a fare il censimento? Insomma, questi, non so se dice, questi addetti al censimento avevano dato dei nomi, non so, Greta Garbo, Mary Moreau, cioè, dei nomi pazzeschi a questi poveri Matsiginga. E da qui poi, quando i due gruppi si incontrano nella foresta, si incontrano anche con questi incontactados, che, di cui ho sentito molto parlare, e ne ho visto solo uno da lontanissimo, perché dovete sapere che li chiamano i cuscheni, cioè quelli che vengono dal Cusco a estrarre il petrolio, a scavare per l'oro, portare via gli alberi più preziosi, quelli che non vengono attaccati dalle termiti, che c'è un'essenza sola che è preziosissima perché non viene attaccata dalle termiti. E questi qua, già allora si parlava che erano stati uccisi da due di questi, che si erano avvicinati troppo alla tribù degli incontattados, erano stati uccisi da questi. E quindi io mi sono poi inventato una collaborazione tra Tornato Uomo, che è questo che abbiamo, un personaggio di cui abbiamo letto nell'Incipit, diventano i collaboratori della selva di queste due spedizioni, capendo che loro non vanno lì per depredare, ma solo per la storia e magari anche poi per portare al mondo cosiddetto civilizzato le istanze dei loro problemi.